Noi siamo quella razza che non sta troppo bene, che di giorno sarta fossi e la sera le cene. Lo posso gridare forte fino a diventare fioco. Noi siamo quella razza che tromba tanto poco. Noi siamo quella razza che al cinema si intasa per vedere donne nude e farsi sega a casa. Eppure la natura ci insegna sia su monti sia a valle che si può nascere bruchi per diventare farfalle. Ecco, noi siamo quella razza che le fa le più strane, che bruchi siamo nati e bruchi si rimane. Quella razza siamo noi, da inutile far finta, ci ha trombato la miseria e siamo rimasti incinta. Bella, fa male, insomma, mi sento male, fa male la testa. La testa? La testa. Come la testa? La testa. La testa? La testa. Che ve la guido io la bicicletta, tu duri meno fatica. Vai, guidare, va. Te la guido io. Mi fa male la testa. La testa? La testa in che? La testa. Come? Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 19ª puntata di Fuoco alle Polveri. Ciao a tutti. A chi? Boh, a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie. A me? Ciao Guidone. Mi stai ascoltando anche tu? Certamente. Per essendo accanto a me. Certo. C'è chi ci ascolta in etere e chi ci ascolta qui. A livello qui proprio di Pipe davvero. Pipe davvero. Esattamente. Io. Ciao Giovo. Ciao ragazzi. Com'è? Tutto bene, tutto bene. Che bella compagnia. Beh, ogni tanto. Oh, quindi oggi siamo... Che giorno è oggi? Il 3 aprile. È il 3 aprile. 19... Si inizia bene. 19ª puntata. Pizzo alla regia, attenzione. Siamo prontissimi. Pieni di defezioni, pieni di mancanze, ma appunto cari. Mancanze non mancanze. Allora, vuoi dunque sapere 19 come che cosa? Ma come potrei sopravvivere senza? la settimana parte... In modo migliore, no? Sapendo il numero. Vabbè, no. Diciamo di sì. Diciamo di sì. Allora, 19 come gli anni del ciclo di Metone. Qualcuno di voi sa chi è Metone? Io no. Allora, no. Metone. No, no, no, assolutamente nessuno? No. Perfetto. Beh, viva. Metano, so. Metano, certo. Metanone, magari. Metanone. No, nulla, Metone. Metone è uno studioso dell'antica Grecia del V secolo a.C. che fondamentalmente ha scoperto che ogni 19 anni il Sole, la Luna e la Terra si allineano provocando l'eclissi. Ok? L'eclissi poi quindi avvengono. Il ciclo di Metone è quello che ci permette anche di calcolare la Pasqua. E dunque tra poco ci sarà pure la Pasqua. La Pasqua è la prima domenica successiva al plenilunio. Va bene, quindi questo è il 19 come... 19 anni del ciclo di Metone. Beh, opposto, perfetto. Ti piace? Roba di Pasqua, va bene. Sì, dai, roba di classe. Roba di classe, roba di Pasqua, molto bene. Uova di Pasqua. Grande Guido. Quante cose ti insegno? Tantissime, tantissime. Il... nonostante appunto le nostre mancanze, che poi vi spiegheremo perché sono mancanze, nonostante questo siamo pieni di roba. E direi che potremmo partire già con una canzone. E poi niente, vi facciamo capire un po' che cosa facciamo oggi. Quindi preparatevi all'energia qui su Radio Wombat. Se il giorno è tenero la notte, Ciao, ciao a tutti, siamo su Radio Wombat e io vi dico che oggi proprio siamo nella merda. Eccoci qua sulle frequenze di Radio Wombat su Fuoco alle Polveri. Sì, preparatevi all'energia, come vi diceva prima Guido. Sì. E no, a parte tutto, preparatevi davvero. Nel senso che qui sta prendendo fuoco qualcosa. Che miseria. E non è molto simpatico. E il iniziamo praticamente. Possiamo andiamo perché allora, volevo dire, possiamo andare avanti, ma non abbiamo ancora iniziato. Siamo nella merda. No, ci siamo vicini, ma non ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Iniziamo, le nostre consuete chiacchiere. Sì, che sono così, quello che a noi ci guardiamo e raccontiamo così davanti al microfono, non so perché, però, ci si diverte. Beh, sì, cerchiamo di ragionare su alcune questioni che ci sembrano importanti da affrontare. Chiaramente non siamo esaustivi al 100%, ma cerchiamo di dare qualche input. Esaustivi? Mai. Beh. Esattamente. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di quei lavori che il 27 marzo, appena passato, sono iniziati giù in Puglia, cioè i lavori per il gasdotto detto TAP. O TAP. TAP. Avete visto, sicuramente avete letto, visto le mobilitazioni dei NoTap e di tutti i movimenti territoriali pugliesi che si sono mobilitati fisicamente e hanno anche preso diverse manganellate per combattere l'inizio di questi lavori. Sì, perché un po' le immagini che si vedono in televisione, che ce ne sono state tante erano sì, un tanti po' articoli. Questi camion con sopra degli ulivi sradicati e la gente la polizia intorno che protegge questi camion che portano via gli ulivi bastonando come se non ci fosse un domani. Esattamente. Questa è un po' l'immagine che arriva, ecco. Allora, che cos'è il TAP, prima di tutto? La TAP, forse, femminile. The tape è un gasdotto internazionale lungo 4.000 km che parte dall'Azerbaigian. Ok. Difficoltà nel pronunciare Azerbaigian. No, non Azerbaigian, ma non solo, poi da lì si sposta in Georgia, passa per tutta la Turchia, arriva in Grecia, svolta a sinistra, svolta a destra per l'Albania e poi si immerge per arrivare da noi in Puglia. In Puglia, dovrebbe arrivare in Puglia per poi riprendere la via di terra, arrivare fino a Brindisi e collegarsi al collegamento nazionale. Ok. E poi chiaramente europeo. Essere smistato poi. E essere smistato, esattamente, e per andare poi anche di là, no? Ok. Into the mare, verso la Frick. Questo quindi è la grande opera che porterà gas in alternativa, quindi arrivando da sud, in alternativa a quelli russi del gas. Al gas, sì, esatto. Niente, allora, questa è un po' la parte generale di che cos'è, per chi non lo sapesse. Certo. Le mobilitazioni si sono mosse appunto giustamente, lì, giustamente in Puglia per svariati motivi, non... solamente per, come viene detto spesso, per quei 10 olivi che poi in realtà poi in poi totale 10 non sono, ma sono 10.000, perché chiaramente non passa solo da lì, ma certo, che poi non vengono tagliati, vengono spostati e riposizionati. Sì, però, che comunque magari che ce l'ha gli olivi. Sì, poi allora, per informarsi su queste cose, per esempio io sono andato a leggere sia tutti gli articoli, ho letto anche i comunicati di NoTap, che dicono per esempio che anche solo questi primi spostamenti sono a 8 km da dove li hanno espiantati, che sono troppi per consentire che la pianta non subisca danni anche solo per questo passaggio, o almeno lo affermavano così. Sì. Una delle cose contestate principalmente, insomma, una delle cose contestate legislativamente è il fatto che questi lavori dovevano essere già iniziati il 16/5/2016. Cosa che non è partita e sono finiti è scaduta la concessione una delle cose maggiori per poter fermarlo che sono state portate fuori, che però non sono servite perché i lavori sono partiti il 27 marzo. Sì. E nonostante mi sembra che siano interrotti, poi ripartiti, stiano andando avanti. Sì, leggevo nel mentre che hanno capito questa cosa hanno avvertito i carabinieri per vedere di riuscire a fermare lo spostamento e poi avete visto, cioè in realtà si sono fermati, poi sono ripartiti, insomma ora sono a pieno regime. E anche perché devono finire, insomma devono iniziare lavori che non sono lavori brevi. No, immagino, è un'opera comunque enorme, nel senso che deve portare l'energia da un paese estremamente lontano a tutta l'Europa, passando per qua e passando per il mare, passando per l'Albania e gli altri territori. Ora, appunto, ci sono vari motivi per protestare contro, certo, un'opera del genere, nel senso che le abbiamo già detto un paio e ne potremmo trovare molti altri, ok? Certo. Anche soltanto la decisione, quindi di portare una grande opera su un territorio non passa mai per una decisione del territorio stesso. Questo è uno dei motivi per cui la gente poi si invipera. Questo è proprio un problema di prassi nazionale e internazionale. Certamente. È anche vero che poi gli stati appunto prendono e fanno da che mondo è mondo. Un altro motivo per cui si protesta, viene protestata questa grande opera, è che è una grande opera destinata appunto a un consumo energetico di una fonte non rinnovabile, esattamente, inquinante. Quindi l'ennesima grande opera che va a diciamo a pensare alla distribuzione dell'energia, però non pensa a nessuna forma di energia alternativa, nessuna forma di energia rinnovabile. Quindi per l'ennesima volta si favorisce le grandi aziende per dargli questi mega appalti e in barba a qualsiasi altra ideologia anche di alternativa energetica, no? Sì. Che poi sì, ideologia più che altro sembra un po' la necessità del mondo, nel senso che stiamo un po' prosciugando il tutto. Ora, in più si aggiunge, sì, si aggiunge il fatto che poi vengono fuori delle cose, nel senso che andrà appunto dell'essenza di questa grande opera, viene fuori anche come da noi e da anche il resto del mondo, nel senso come anche gli altri paesi gestiscono e sfruttano e approfittano di queste grandi occasioni, più che grandi opere mi sembra, perché poi a volte magari non vengono nemmeno portate in fondo, sono grandi occasioni per qualcuno. In questo caso appunto leggevamo di del marasma, cioè di sì, del poi marasma. All'interno di quell'articolo appaiono partendo da questa punta di articolo che ci riferiamo un'inchiesta uscita sull'Espresso ieri. Sì, che già io sono andato sul sito del TAP, c'è cioè un sito proprio loro in cui chiaramente portano acqua al loro mulino e c'era già un comunicato e dicevano faremo querela certamente all'Espresso per l'articolo diffamatorio, non c'è assolutamente la mafia di mezzo, non ci sono assolutamente i narcotrafficanti, non c'entra la Russia, cioè già dicendo queste parole comunque si vede qua il buglione di... Quindi No, nel senso mi descrivi un po' qual è questo buglione, non lo so. Allora, è difficile. Oppure possiamo anche rimandare direttamente all'articolo e farlo leggere ai nostri fedeli ascoltatori. Vabbè, come sempre vi invitiamo a informarvi a 360 gradi. L'articolo non è facile da riassumere e comunque ricordiamoci sempre stiamo leggendo un articolo. Ah cioè no, una voce. Parzialissimo. No, ma era interessante semplicemente. Però è molto interessante e sicuramente la parte che hanno tirato fuori dell'imprenditore svizzero, insomma, questa SPA, no, impresa non è una svizzera. SPA. Bravo, impresa volevo dire. Questa impresa svizzera che sta dietro il tutto, tra l'altro diceva l'articolo, grande opera a favore dell'energia europea, data in appalto a un'azienda non europea, perché la Svizzera non fa parte dell'Europa, comunque, al di là di questo. Vero anche questo. È vero anche questo, cioè alla fine. E dietro, insomma, questo personaggio che è un po' il dirigente, sì. Si girano intorno molte storie. Sì, ma più che altro molte storie, più che altro diverse inchieste. Inchieste, senso, arresti e situazioni tra appunto il Sud America con questo riciclo dei soldi, esatto, con dei narcos, che questo imprenditore è stato beccato a dare soldi in contanti a un gruppo e sono stati arrestati tutti, non è che... ora non so se in realtà questo imprenditore, non diciamo stronzate. Non ci querela nessuno, questa cosa è bellissima perché noi non ci può querelare nessuno. Che cazzo siamo? Vabbè, noi stiamo citando. No, appunto, poi appunto con altre inchieste legate alla malavita nostrana, non soltanto quella sudamericana, esatto, e tante altre amenità che poi potete appunto leggere a giro per il web, nel senso che non soltanto l'Espresso ma anche tutto il movimento Notap poi cerca di far emergere certe che poi purtroppo la simpatia nel mondo. Non per noi. Non direi che possiamo adesso, come ci è usuale, saltare di palo in frasca e abbandonare le terre salentine per avventurarci. A cui diamo la nostra solidarietà. Certamente, assolutamente. Dicevo, abbandonare le terre salentine per avvicinarci invece alle terre bolognesi. Abbiamo infatti una bellissima intervista di una nostra inviata. Esattamente. Una delle tante inviate di Fuoco alle Polveri. Mille. Che girano il mondo. E che è andata a parlare con un compagno dell'XM24. XM24 che è... Sotto sgombero. Come? Centro sociale storico di Bologna. Sì, ah, ok. Situato nel quartiere Bolognina, quindi un quartiere particolare per mille motivi. Tra cui una sorta di disagio sociale che si porta avanti da decenni, sì. E che questo luogo ha provato, comunque sicuramente è riuscito in certe cose a far rivivere con socialità diversa da quella che viene proposta ufficialmente e istituzionalmente. Quartiere completamente abbandonato in certi periodi della sua storia. E però noi non sappiamo un cazzo, come al solito, non è vero, sappiamo, ma facciamo parlare i diretti, esatto, partecipanti alle sicuramente cose. Sicuramente ne sanno più di noi. Esattamente. Quindi l'intervista della nostra inviata Anita con il compagno. Wombat! Viva! Pronto? Pronto, ciao Max. Ciao. Ciao, benvenuto a Radio Wombat Firenze, alla trasmissione di Fuoco alle Polveri. Tu sei uno dei ragazzi che fa parte del progetto Lab 57 dell'XM24 a Bologna. Senti, sì, raccontaci un po' dello spazio, la nascita e l'evoluzione del centro sociale, in particolare le attività che sono state svolte e che vengono svolte. Sappiamo che c'è anche una scuola di italiano per immigrati, giusto? Esatto. Ciao, io sono Max, sono di un progetto che si chiama Lab 57, Laboratorio di Interdizionista Bologna, che è all'interno dell'assemblea dello spazio pubblico gestito di XM24. Sì. Questo spazio esiste da 15 anni in Bolognina, qui a Bologna, dietro la stazione, ed è nato fin da subito come un progetto, come uno spazio abitato da tanti altri progetti, sulla base dell'autogestione. Cioè esiste un'assemblea di gestione che a livello settimanale si riunisce e decide, in base alle regole del consenso autogestito, quindi non democratico ma autogestito, di decidere le protettività e di autoregolarsi all'interno. Lo spazio è stato assegnato dal comune sulla parola, sulla base di logiche che riguardavano 15 anni fa di attività in cui gli spazi sociali erano molto forti in questa città, sì. E appunto l'amministrazione di quei tempi ci ha consegnato all'assemblea questo spazio fino a 3 anni fa. 3 anni fa l'amministrazione invece ha pressato per avere una convenzione, firmata da un'entità, e questa entità è stata creata da noi sotto il nome del Comitato di Tutela dell'Autogestione, sì, che si chiama ESA, che è stato è un comitato creato appositamente da noi, dall'Assemblea di XM e anche da altre realtà, per assegnare questo spazio all'Assemblea di XM e di firmare una convenzione col Comune. Questa entità, che si chiama Comitato di Tutela dell'Autogestione, ha un lungo statuto che è stato frutto di tanto lavoro comune, mm-hmm, e riconosce tutti i principi che regolano la vita di non solo di questo spazio, ma di molti degli spazi autogestiti, almeno in città, che riguardano l'antifascismo, la libertà di movimento, l'autocertificazione, per esempio, dei prodotti del cibo che viene dato all'interno dello spazio, come per esempio il circuito genuino clandestino, sì. Infatti i Campi Aperti è stato tra i Campi Aperti, che è la realtà, l'associazione di contadini che si autopromuovono, che ha fatto il primo mercatino qua a Bologna. Sì. Ce ne sono 7 e tante altre attività, sono almeno una quindicina di progetti, anche di più, che hanno attraversato XM e che vivono dentro XM, tra cui c'è appunto la scuola italiano migranti, in cui i migranti possono accedere alla scuola italiana senza bisogno di documenti di nessun tipo. C'è anche l'ambulatorio medico giuridico per chi ha problemi legali, E poi c'è la club, c'è la palestrina autogestita, ci sono la frigotecniche. L'officina, abbiamo visto. L'officina, sì. Il nostro progetto antiproibizionista, in cui c'è primo soccorso e anche analisi di sostanze, che sono i primi in Italia che lo facciamo. Insomma, è una vita molto articolata quella di questo spazio. Sì. E adesso abbiamo un problema. Il problema del previsto sgombero che a giugno dovrebbe esserci, se sì. Non sono cambiate le cose. Sì, ma no, sono sempre uguale. E la situazione quindi adesso qual è? Quali sono i vostri prossimi obiettivi? Sì. Quindi la campagna Elovix M24, se ci vuoi dire qualcosa in merito. Certo. E allora, lo sgombero è in realtà una lettera di sfratto ufficiale che ci è arrivata verso la fine dell'anno. Con la data del 30 giugno per liberare i locali, così semplicemente. Cioè praticamente la scadenza naturale di questa mini convenzione di 3 anni col Comitato di Tutela dell'Autogestione era in scadenza al 31 dicembre. Sì. L'amministrazione, senza dopo non aver detto nulla, perché noi avevamo come promesso, avevamo consegnato la nostra relazione di fine attività di questi 3 anni, e siccome l'amministrazione non l'ha voluta ricevere perché appunto avevano già previsto di sgomberarsi, l'abbiamo attaccata al muro esterno di XM24, no? così tutti la possono leggere, esattamente. Uh-huh. E poi chiaramente non ci sono stati altri momenti di confronto con l'amministrazione, se non tramite i giornali. Cioè, per dire, io cosa do alla Rio, inventato il fatto che ci fosse, che verrà creata, verrà costruita una caserma all'interno di questo spazio. Sì, potete capire, detto, sì. Una parata abbastanza grossa. Sì. Tanto, come più o meno avevamo tutti previsto, era una sparata grossa, così grossa che anche il Ministero dell'Interno ha smentito il sindaco dicendo che non era prevista nessuna caserma, perché in realtà erano già previsti un altro posto di polizia poco lontano da qui, in cui per il quartiere non aveva nessun senso. Qui attraverso l'Italia qua ha messo una nuova e per andiamo a quello di lo sfratto dello sgombero di realtà autogestite partite dal basso. Sì. C'è lo sgombero di Atlantide, un altro spazio di oltre una decina, quindicina d'anni, che è stato sgomberato l'anno scorso. C'è recente, è vero. Poi qua davanti a noi, vicino alla nuova sede del comune, c'era lo sgombero dell'ex Telecom, con 300 persone, soprattutto migranti, buttati in mezzo alla strada, in uno spazio che era abbandonato anche quello da 15 anni, e adesso ci vogliono fare un ostello di Granonti. Sì. E tutte altre realtà, la Bella Libera 10 in Italia di Bocchestino, per i confronti, i pubblici, chiusura di Jersey, una relazione, hanno fatto in modo che il comitato si ritirasse dicendo che è impossibile una assicurazione da 1 milione di euro per i danni eventuali a una piazza pubblica, che nel senso basta pulirla alla fine. Alla fine il comitato si ritira e tutte le attività del 25 aprile verranno fatte spontaneamente, perché non è possibile che una persona o un comitato che organizza una festa per la liberazione possa finire multato addirittura con delle denunce penali perché ha organizzato un evento alla liberazione di Bologna. Che sta... Sì, infatti ogni anno veniva fatta questa festa, sì. Lo ricordo anch'io. Sono venuto non ci sarà nulla, sì. Non ci sarà nulla di ufficiale, poi in realtà penso che le persone riprenderanno quello spazio, certo. In un modo più autogestito, e infatti qualcosa succederà in ogni caso, che si tranquillizzino tutti anche. Sì, insomma, una vera e propria repressione anche a Bologna, sì. Le cose insomma stanno cambiando purtroppo. Ma senti, una domanda che volevo farti con riferimento all'XM24, a proposito comunque del quartiere della Bolognina, comunque un quartiere abbastanza emarginato e problematico, più o meno come avete provato a risolvere i vari problemi, anche quelli di droga, che erano abbastanza frequenti in quel posto? Ma in realtà il quartiere il quartiere della Bolognina è un quartiere molto popolare, è sottoposto a delle operazioni sia immobiliari sia anche molto più grandi, come per esempio la costruzione della stazione TAV dell'alta velocità qua dietro, che ha fatto crollare per quasi una via intera con inquilini sfrattati. E questo progetto gigantesco della Tredicena Vile, che è quello che è adiacente allo spazio di XM24, uh-huh. In realtà è fallito sulla parte finale, nel senso che qualcuno si ricorderà che 3 anni fa volevano buttare giù una buona parte di XM per fare una rotonda enorme. Noi abbiamo riprogettato la rotonda, presentato il progetto, alla fine i tecnici del comune sono resi conto che era migliore il nostro, perché permetteva di risparmiare. ma il sottopasso che ecco, giustificava la costruzione della, della rotonda è ancora chiuso dopo, dopo due anni, anche di più tre anni, perché hanno, l'hanno fatto troppo basso e non passano i camion e i pompieri per andare a, a, a servire la stazione, tra gli altri motivi. Quindi chiuso quello spazio, un palazzo qua di fronte, che doveva essere quello l'unico adibito a edilizia popolare, non è stato finito dopo varie fallimenti e bandi e istruttorie penali su, sulle ditte, sui consorzi che l'hanno costruito e l'hanno lasciato incompiuto. Quindi abbiamo uno, dietro il XM c'è uno scheletro di palazzo con ancora l'impalcatura senza finestre, solo nudo cemento, è rimasto lì a, e che il, penso che il comune e la regione si sono impegnati a metterci altri soldi pubblici per finire questa, questa roba. Quindi questo è più o meno lo stato architettonico. Chiaramente in questa zona qui insistono altri problemi, insistono problemi che riguardano la gestione dell'ordine pubblico, che come anche vari sociologi anche, e altre persone che si occupano di questi temi hanno fatto notare, se, se in una zona sostano o stazionano per esempio persone che spacciano sostanze stupefacenti illegali e stazionano, sono lì, a fronte di una presenza spaventosamente potente di militari, addirittura la camionetta dell'esercito, carabinieri, polizia che insistono in questo quartiere sempre e comunque, sì, ci deve essere un problema di gestione dell'ordine pubblico, perché non è possibile, perché se si volesse veramente ripulire da tutto il, l'illegalità un quartiere, o, anzi sono, sarebbero, sono poi due vie, non è che sono tante, il problema sarebbe già stato risolto, un po' come la gestione di Piazza Verdi in centro Bologna, in cui non sanno più dove parcheggiare le camionette dei vigili, e continua comunque a insistere il problema dello spazio, dei tossicodipendenti che girano e fanno degrado, e che addirittura vanno nelle biblioteche e poi per tirarli fuori hanno dovuto buttare dentro la, la cellula con i manganelli dentro la biblioteca, perché qualche, perché qualche un collettivo di studenti volevano tenerla aperta anche, anche la sera, come sempre è stata tra l'altro questa biblioteca. E quindi questo problema è di gestione di ordine pubblico e anche di totale, totale disinvestimento dei servizi sociali. Tenete presente che qua a Bologna c'erano 4 SERT, nell'area metropolitana sono diventati 2. E deve diventarne uno solo, con un enorme disinvestimento di servizi, e da oltre 10 anni è chiuso l'unica struttura che dava una mano, per esempio, ai, ai tossicodipendenti o alle persone che vivono in strada in situazioni di marginalità, che è il drop-in, che è chiuso da 10 anni, e una città così, così metropolitana come Bologna, che è un crocevia meta di tanti studenti, è incredibile che non abbia un drop-in fisso in cui una persona che vive in strada può andarci a fare una doccia, fare i controlli cioè malattie, mangiare qualcosa e appunto o magari accedere a, ai servizi se ha veramente bisogno, perché hanno tossicodipendenza. Certo. Invece questi rimangono in strada, aumentano il degrado, quindi il comune continua a investire in sicurezza e repressione, incassa elettoralmente, incassano anche le destre, quindi la Lega, e andiamo avanti con questo giochino qui, che è lo stesso giochino che stanno facendo qua nella, nel nostro quartiere, pari pari, cercano di andare a braccetto con la destra, con la frazione che porta lo sgombro di XM, è proprio così, c'è cioè il comune, il PD cerca di sorpassare a destra Lega e i vari altri comitati di sicurezza del, del quartiere. Tra l'altro faccio notare che tra i promotori di questi comitati ci sono dei consiglieri comunali, di cui uno dimesso, che sono stati inquisiti per le spese pazze della regione, perché sono rubati quei 20-30 mila euro a testa per le spese pazze della regione, tanto per capire che personaggi politici e che concetto della legalità c'è in questa città, non è solo in questa città, ma in tutta Italia, sì. Non si va a braccetto per fare questa operazione. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo cercato comunque di aprire lo spazio e di far attraversare tutte le persone che vogliono condividere o problemi o tematiche di questo tipo dentro nel nostro spazio, facendo iniziative. È chiaro che ma quello che conta alla fine è la partecipazione. E poi se qualcuno ha dei problemi e anche vuole parlare di queste cose, da noi la porta è sempre aperta. Uno se vuole fare una visita o vuole avere accesso ai servizi, che non vuole andare al CERT, può venire a parlare con il nostro sportello. Abbiamo dei professionisti, dei medici, degli infermieri che possono aiutare una persona oppure dargli delle altre strade possibili, certo, non sono quelle dei servizi e del trattamento sostitutivo. Idem i migranti. E chi ha il problema è un falso problema, il comune dice che XM non è compatibile. Abbiamo fatto tante, ormai sono 4-5 abbiamo fatto il compleanno di XM, il 4 marzo che è stata l'iniziativa di autogestione diffusa in tutta la città di Bologna con migliaia e migliaia di persone che hanno attraversato e tante altre iniziative che dimostrano che in realtà essere incompatibili non è che siamo, probabilmente è la società civile tra virgolette, sì, o sono le persone libere che magari sono incompatibili con questa idea che ha l'amministrazione di gestire un territorio, probabilmente, perché certo, non si spiega. Senti, ma per chi volesse sostenere la campagna I Love XM24, quali sono i prossimi incontri da non perdere? Allora, noi quasi ogni giovedì cerchiamo di tenere un appuntamento per parlare di tematiche molto scottanti, come per esempio la gentrificazione, l'urbanizzazione selvaggia o appunto la gestione dell'ordine e della sicurezza in città. Quindi ogni giovedì verso mercoledì, giovedì XM, anche a sorpresa organizziamo incontri, sì, ne sarà una di questo giovedì con un sociologo e un urbanista, ma il prossimo grosso appuntamento è il 9 aprile, in cui ci sarà un'altra giornata che promuove l'autogestione dentro XM, con musica, una specie di modo da portare le nostre attività oltre i ristretti confini di XM24, cercando anche di coinvolgere più persone. Quindi a breve verrà pubblicata la locandina, gli eventi. Il prossimo incontro. Sì. Il 9 aprile è una giornata più di festa, quindi invece il giovedì prossimo avremo un altro incontro qua XM con un urbanista. E poi a breve organizzeremo altri momenti molto più grossi, perché per esempio qua a Bologna c'è la campagna Love XM24 con le bandiere attaccate a ogni finestra di tutto il quartiere della città. E poi ci riserviamo di attaccarci, cioè chiaramente parteciperemo alla giornata del 25 aprile, appunto autogestita, sì, e quindi quella sicuramente XM sarà una parte di questa giornata. Il primo maggio qualcosa succederà e poi nei prossimi mesi succederanno cose ancora più importanti, perché cerchiamo di coinvolgere tutte le persone che hanno a cuore l'autogestione e la tutela degli spazi autogestiti, sia individualità che gruppi, che in qualsiasi livello e entità. Bene. Bene Max, grazie mille della disponibilità per questa intervista, in bocca al lupo per tutto e siamo con voi, quindi anche il 9 qualcuno di noi verrà a sostenervi. Grazie a tutti voi, Grazie a te. Grazie. A presto, ciao, grazie, ciao. La caduta dei capelli. per scontato, non si dà niente. E l'indignazione regna sovrana qui su Radio Wombat. Radio Wombat, sì. Cose su cose, quindi prima no tappa, adesso indignazione per lo sgombero e tutte le cose raccontate qui, durante, che sì, hanno portato a sì, dell'intervista realizzata da Anita, che tra l'altro attenzione è qua con noi praticamente. È un po' tutta sorpresa, tutto gira. Per esempio, un'altra cosa che gira è il fatto che non ha la tancia, sì, si danza. Vabbè, quella anche. Un'altra cosa che gira strana è che adesso sì, ci si dobbiamo parlare di alcuni appuntamenti che si svolgeranno a Urbino. Chissà perché dite voi Urbino, ma Urbino, aspettate un secondo, nei prossimi giorni. Se diciamo qualcosa fuori da Firenze è veramente interessante. Certamente. Vabbè, ve lo dico subito, ma, almeno esatto. Poi ci colleghiamo a quello che vogliamo fare. Bando all'ingiugi. Allora, all'ingiugi. Il 4 aprile, ossia domani, a Urbino, nelle aule del collegio, nell'aula studio del collegio L'Aquilone di Urbino, avverrà la, cioè, è stata organizzata la, una TAZ, Temporary Artistic Zone, dal CAU. Esatto, vi ricordate già che noi parliamo della TAZ qui a Firenze? Sì, e questa invece è un'altra, e organizzata appunto a Urbino dal collettivo CAU, Omnia Sunt Comunia. E perché ci interessa particolarmente questa giornata? Perché intanto potrei anche leggervi direttamente cosa hanno scritto, sono tre righe. Sì, sì, sì. Questo collettivo per presentarla questa giornata, forse sono le parole migliori piuttosto che le mie balbettanti. E da questo capiremo perché ci interessa bene. In particolar modo. Vado? Vai, vai, vai. In quanto collettivo auto-organizzato universitario, abbiamo pensato di dedicare una giornata al fumetto, all'illustrazione, ai collettivi e all'autoproduzione, tra parentesi, FICA, dove attraverso incontri diretti ci sarà la possibilità di raccontare quello che sono le esperienze e progetti. Così il giorno 4 aprile 2017 l'aula studio del Collegio Aquilone di Urbino sarà invasa da qualsiasi forma di espressione che spazia da immagini, proiezioni, parole di autori e collettivi provenienti da varie zone d'Italia. La scelta di questo luogo è dettata dall'obiettivo di rivalizzare spazi comuni che all'interno dell'ambiente universitario e della città sono sempre più regolamentati e di difficile accesso. Quindi, attraverso la programmazione di eventi artistici e culturali, ci promettiamo di restituire questi spazi alla comunità per favorire i momenti di socialità e confronto. Ottimo. Autoproduzione, auto-organizzazione, due parole che a noi veramente ci esaltano. E quindi ci stiamo probabilmente, forse, attenzione, per la prima volta della serie Fuoco alle Polveri, esatto, abbiamo un collegamento telefonico. Un collegamento in diretta telefonico con una delegazione di Fuoco alle Polveri e soprattutto di Inchiostri Ribelli, che si sta dirigendo verso Urbino, perché è invitata a parlare dell'esperienza di Inchiostri Ribelli. Esattamente, cioè vi rompiamo le scatole tutte le settimane. Un attimo, stacco, riattacco. Vai tranquillo, noi continuiamo a parlare. E... però cosa stavo dicendo? Stavi dicendo che vi rompiamo i coglioni tutte le settimane con ribellarti, l'assemblea, è una cosa che funziona, il movimento sta funzionando, una cosa reale che viene anche invitata da altre realtà, sì. Quindi insomma, eppur si muove. Eppur si muove, quindi ci se forse... Nicco, pronto? Fare questo. Ecco, ragazzi, abbiamo Nicco. Voilà. Ciao ragazzi. Grande, aspetta, passo il telefono a Lore, via. Ecco, ora c'è il passaggio del telefono. Pronto. Ciao ragazzoni. Ciao ragazzi. Evviva, dove siete? Siamo a Pocaia, nei pressi di Pocaia. E dove minchia è? È un posto vicino ad Anghiari, prima vicino ad Anghiari. Sì, avevi fatto Anghiari. Tanta strada ancora, mi sembra. Tanto sepolcro. Ragazzi, dai. Pigiare, su quella cellula. Sentite. Siamo in Umbria. Bravi. Ma e state anche ascoltando Radio Wombat, mi sa. Di brutto stiamo ascoltando bellissimo. Ascoltando Radio 24. Tu ti sei messo Radio 24 in cuffia e noi invece qui a smattare, Sì, no, ma siete forti, ragazzi. Grazie. Dai, su. Grazie. Tra un po', tra l'altro, la tua voce riapparirà in forma probabilmente migliore anche per la tua rubrica, quindi è tutto magico praticamente. Dunque, perché ho il dono dell'ubiquità. Bellissimo. Grazie. Ma e cosa state andando a fare? Cioè, in realtà l'abbiamo già detto, cosa è andato a fare Urbino, però se ce lo dite voi forse è un pochino meglio, oppure no. C'era Marco che ve lo voleva raccontare in maniera specifica. Scarica barile. Ma no, specifica, cioè, ve lo dico veloce. Stiamo andando ospiti del CAU, il collettivo organizzato universitario di Urbino, per una TAZ. Una TAZ è la Temporary Artistic Zone, zona temporaneamente artistica, che si svolgerà domani dalle 9:30 di mattina presso i collegi di Urbino, bellissima architettura di De Carlo, tra l'altro, cioè che ci siamo. Bello, sì. E niente, ci saranno autoproduzioni, fumetti, esibizioni, live painting, proiezioni e soprattutto tanti tavoli di confronto e discussioni a viva voce fra chi, insomma, esperienze conflittuali in questo ambito sta già praticando. Eccolo. Noi in effetti che ce ne andiamo. Bravi ragazzi, andate a portare i nostri portiamo un sacco di cose. Portiamo l'assemblea ribellarsi, sì. Portiamo i nostri ribelli, sicuramente portiamo anche Radio Wombat. Bravi. E anzi torneremo con un sacco di cosine che potremo mandare le settimane a venire. Bravi. Pensavo si parlasse di droga, in realtà diceva no, i concetti, niente droga in autostrada di... ragazzi, mi raccomando, cioè, che pericoloso. Ok, portateci indietro, sì, un po' di contributi, un po' di contenuti. Che dite? Certo, faremo qualche intervista. Senti, così si manda alla prossima puntata. E niente, abbiamo un sacco di contatti anche da rinvitare poi al Festival di Letteratura che abbiamo saputo sarà in polveriera il 18-20-21 maggio. Sei informato? Regista caro, sono molto bene di diffusione nelle notizie e informazioni per la polveriera. Sì, sono bravi. Ma una breve parentesi, già che parlavate del TAP, la posso fare? Che l'ho letta stamani mattina questa cosa. Vai, dai. Allora, cioè, pare che siccome questo TAP l'avevano fatto per evitare che ci fosse la dipendenza dal gas russo con questo tubone che passava dal nord, sì, l'hanno fatto la via del sud, no? Che svolta a destra in Albania e così via. In Azerbaigian non c'è un cazzo di gas, cioè non lo proprio riescono a pigliare, quindi da quel tubone ci passerà il gas russo a sorpresa. Perfetto. E costerà il doppio o qualcosa del genere rispetto a quello che arriva dal nord per i mille passaggi di mano, quindi doppiamente inutile e dannosa questa cosa fatta bene, una cosa fatta bene, fatta in casa, garantita. Sembra ottima, sì. Garantita al limone. Sì, al limone. E ragazzi, nulla, vi auguriamo un proseguimento sereno del vostro viaggio. proseguimento Wombat. Un proseguimento Wombat. Continuate ad ascoltarci e a dirci quando salta lo streaming, perché tanto siete voi che ce lo state dicendo. Chiediamo scusa a tutti. Avventuriamo nelle vie dell'Appennino, che è quella. Sì, infatti, che è infatti, non ci dite più niente e poi ci mettete la paranoia addosso. Non ci date troppa retta, E niente, dai. Che hai detto? È bravo il pilota. Un saluto, Wombat. Stay Wombat. Stay Wombat al pilota, bellissimo. Ho anche capito, penso aver capito io. Molto bene. Ragazzi, vi salutiamo, noi proseguiamo qui che siamo a lavorare, voi nulla. Fatevi, abbronzatevi. Buon viaggio. Tanti bacini. Ciao. E questi erano i nostri inviati, che sono inviati proprio, stanno andando, cioè sì, sono l'abbiamo mandati in invio. Cioè i puntini delle chat. È stato bellissimo. Bellissimo. Ora, per rimanere in tema di magia, quindi niente, allora abbiamo detto, loro vanno ma tornano con anche delle cose che vi racconteremo la prossima settimana, direi, com'è andata questa giornata Urbino di domani. Sì, assolutamente. Tra l'altro è anche uno di quelli che ha parlato, non il regista, non il guidatore, non l'abruzzese, quell'altro, è il suo compleanno, quindi gli facciamo gli auguri. Tanti auguri! Tanti auguri Marchino. Detto questo, l'altro momento di magia è la meta rubrica, cioè la rubrica registrata da uno che adesso sta andando a Urbino e però vorrebbe essere, insomma, sì. Senti, c'è tutti i personaggi polivalenti, poteri divini di Nicco, i poteri divini di Nicco. Sì, l'uso ubiquità. Quindi niente, scaldatevi, cominciate a preparatevi a scaldarvi i cuori con il prezzemolico Nicco. Bravo. Due piazze core, sigla. Attacco il telefono, qui salta tutto. Cos'è che ci buttaste per mamma con tanto amore? No, UBSI core. All'altra ciabatta. Sure is the same old shillelagh before the run. I'm Irish, I come from Calabria, Ireland. Buonasera a tutti e viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat. Insomma oggi due piezze core ci buonasera. Ciao Nico. Bella Samir, benvenuto. Bella a tutti, bella a chi ci ascolta. Si parla un po' di italo-americani, insomma il pezzo che stiamo sentendo adesso è un pezzo di Lou Monte, che all'anagrafe si chiama tale Luis Scaglione. Il pezzo si chiama Lazy Mary, lui è calabrese. Lazy Mary, è il modo con cui... Lazy Mary, cioè pazza, penso che voglia dire pazza, Lazy, no? Lazy, tipo stravagante. Sì, o tipo... Pigra, cazzo, sono un ignorante, è vero, pigra, è vero, è c'è vero. C'è una canzone dei Deep Purple che si chiama Lazy. È vero, Maria la pigra, insomma, che sarebbe, c'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mare tare, insomma, queste cose qui. Questo tipo è nato a Manhattan, come tanti dei cantanti italo-americani degli anni 50-60, sono davvero, sono nati in America, però figli magari figli degli emigrati italiani. Lui tra l'altro ha avuto anche successo in Italia con una canzone che si chiama Peppino the Italian Mouse, perché era amico di Aurelio Fierro, che era uno di questi cantanti italiani molto, delle grandi belle voci degli anni 50, tanto che lo stesso Lou Monte, cioè lui Lou Monte che in abruzzese Lou Monte praticamente doveva andare a Sanremo nel 64 a portare una canzone che sentiremo più tardi, insomma poi fu sostituito all'ultimo con tale Marina Moren. La cosa comunque divertente di cui si parla oggi sono queste canzoni qui, queste canzoni che parlano d'Italia, che però erano dirette in maniera diretta, appunto, direttamente al pubblico americano, le cosiddette canzoni cartolina degli anni 50-60, cioè nel secondo dopoguerra gli italiani iniziano a fare canzoni multilinguistiche con americanate sparse così, cliché, ma, pizza e mandolino, il senti come se dovessero vendere, è un lavoro di marketing, no, dovessero vendere l'Italia in generale, è un lavoro di marketing che è stato fatto anche tanto con il Brasile negli anni 70-80, questo molto dopo, gli americani fecero la stessa cosa, parlavano sempre del Brasile, mettevano la samba nelle canzoni più radiofoniche americane, facevano pezzi brasiliani e cose così. Il pezzo che uno di questi, volevo dire, uno di questi tra i tanti è stato anche Luis Prima, uno che è entrato nella Hall of Fame del jazz, un tipo importante che ha fatto tanto jazz di New Orleans negli anni 20, poi si è riciclato tantissimo, ha fatto swing, ha avuto una big band, è stato la maggior parte, diciamo, di questi cantanti italo-americani come Luis Prima e Lou Monte. Hanno avuto il loro momento più fulgido nei casinò di Las Vegas. Allora io mi sono andato a vedere questa cosa di quando è nata cazzo Las Vegas, perché Las Vegas è un deserto, era un posto dove si fermavano le carovane fino agli inizi del Novecento praticamente, quando cioè ci si fermavano le carovane che andavano verso il West praticamente. Negli anni 30, a quanto pare il 19 marzo, cioè un po' prima, negli anni 20 viene costruita una diga vicino a Las Vegas che forma un lago e diventa una meta di balneazione, turistica di balneazione. No, non lo so, la diga di Uber? Sì. E forma questo tale lago Mid. Grande Samir, praticamente il 19 marzo del 1931 l'America liberalizza il gioco d'azzardo e allora il grande Bugsy Siegel, grande magnate a quanto pare, costruisce questo cazzo di primo grande hotel casino a Las Vegas e dà il via a quella violenza edilizia che c'è stata. Un visionario ha costruito il Flamingo. Capito? Quello che mi pare sia proprio quello di Las Vegas, quello, no? Ocean's Eleven, cos'era? Penso forse anche. Insomma, sentiamo questo primo pezzo che è un pezzo di un italiano. Oggi tutti e due i pezzi di cuore sono suoi. Il grande Nicola Arigliano, che in realtà è stato un cantante molto italiano, sempre molto italiano, però anche lui molto un gran simpatizzante della musica americana, diciamo, ha fatto tanto jazz e tanto swing, soprattutto negli ultimi anni. Ora sentiamo questo pezzo che è veramente meraviglioso, una di queste canzoni cartolina per vendere il sentimento, il cuore italiano agli americani, a me fa morire dalle risate. Si chiama I Sing Amore di Nicola Arigliano. Avanti, sentiamola. I sing amore per dirti darling I love you, son guaiato ti amo very much, purtroppo però non lo so dire, do you capire my love to dare solo un kiss, io pregare tu credermi perché desidero te for me. Non sapendo Catari, né torna sorriendo, canto only you, solo per te. I sing amore, do you capire oppure no? Voglio dir che I love you so, e resta così with me. Sapendo Catari, né torna sorriendo, canto only you, solo per te. I sing amore, do you capire oppure no? Voglio dir che I love you so, e resta così accanto a me. La la la la la la la I sing a more la la la la la la la I sing a more. Insomma, ritorniamo dopo questa bella canzonciona. Il pezzo che stiamo ascoltando adesso, Sole, Pizza e Amore, cantato dal grande Aurelio Fierro, di cui si parlava prima, era quello che doveva andare a cantare Lu Monte nel 64 a Sanremo. A Sanremo, proprio nel 64, si presenta con un'altra canzone che è il secondo pezzo di cuore di oggi. Nicola Rigliano, che è quello che abbiamo appena sentito fare I sing more. Insomma, la storia di Nicola Rigliano è meravigliosa. Praticamente Nicola Rigliano, tipo fino all'età di 35 anni, si è firmato Pasquale. Cioè si è chiamato con un altro nome perché è uno scappato di casa. A 12 anni, lui era pugliese, scappa di casa perché a quanto pare, raga, questo l'ho letto su tre siti diversi, non solo su Wikipedia, dove... C'era, sì, cioè, a quanto pare l'ha detto in più interviste, in cui dice che era balbuziente, lo prendevano in giro anche in famiglia, non riusciva a sopportare questa cosa ed è scappato. Scappa di casa, va a Torino, anzi, non so se ho detto Milano, volevo dire Torino comunque. Va a Torino, dove suonicchia in giro nei night, e appunto si fa chiamare Pasquale perché è ancora ospitato da amici pugliesi emigrati dalle Puglie. Fa il cantantucolo nei night del nord per tanto tempo, fino a che non viene adocchiato da un produttore televisivo. Insomma, inizia a fare carriera, i primi 78 giri e poi i 45, quando usciranno i 45, più o meno negli anni 50. E niente, fa tante comparsate in televisione, tante comparsate nei programmi, prima per la RCA, cioè l'emittente radiofonica italiana che produceva, si è detto tante volte, no? L'RCA aveva un po' il predominio, il monopolio sulla discografia italiana degli anni 40-50. All'inizio con quella, poi si sposta con la Columbia, inizia a fare un po' più jazz. La cosa che ho trovato bella è che lui fa parte di questi cantanti che mi piace definire soprattutto americani, però in realtà l'abbiamo subita anche noi questa innovazione, cioè i cosiddetti crooner, cioè i bisbigliatori, quelli che cantano in maniera confidenziale. È una cosa che viene da quando è stato inventato il microfono, praticamente. Perché se ci pensi, prima i cantanti più avevano il vocione, i grandi cantanti degli anni 30, degli anni 40, da Villa e tutti questi qui, erano tutti cantantoni con un vocione assurdo che nei teatri ce la facevano andare da soli. Quando inizia a venire il microfono, si può cantare anche così e fare tutto il piacione. I cosiddetti crooner, a quanto pare viene definito. Il crooning è l'arte del fare così, insomma. L'arte del crooning, sì. L'arte of the crooning, yeah. Yeah. Lo facciamo fare a Guido, lo insegniamo a Guido. Lo dobbiamo insegnare a Guido. Insomma, nel 63 conduce uno spettacolo in televisione, il cosiddetto Canta Tutto, insieme a Milva e a Claudio Villa, sempre più famoso questo Nicola Rigliano. Poi lo vedremo tanto, tanto in televisione, anche negli anni 70. Si darà da fare in altri modi, diciamo. Nel 64 anche lui è a Sanremo, mentre Aurelio Fierro canta Cuore, Pizza e Amore, Tuppete, Cuore, Pizza e Amore, Tuppete, Ta. Lui porta... Alta poesia. Alta, altissima. Ma poi, sentitevela, ragazzi, Cuore, Pizza e Amore di Aurelio Fierro, Sanremo del 64, una cosa da pisciarsi sotto, dice, certo, delle cose... Sanremo sforna successi, sforna delle magie incredibili. Tra l'altro... Sono sempre più sorpreso da... sia questa canzone... Dicono, non c'è verso, peggio non può essere, invece poi... A me infatti, questa cosa... mi fa tanto riflettere, perché noi adesso vediamo le canzoni dei Modà a Sanremo e pensiamo, merda, però che epoca infausta che c'è capitata. Ma nel 60 comunque c'era Sole, Pizza e Amore, cioè i non finalisti di Sanremo erano questi. Cioè, mentre in America avevano... da Frank Sinatra, non lo so. Cioè, comunque, noi portiamo adesso il secondo pezzo, è sempre del grande Aurelio Fierro, grande jazzista, è morto nel 2010, ha fatto una comparsata poi, mi pare, proprio poco prima di morire a Sanremo, presentava Bonolis, c'è un video bellissimo in cui lui e tutta un'altra serie di grandi jazzisti italiani, tutti ottuagenari, vecchissimi e raggrinziti, suonano, fanno una jam sul teatro di Sanremo, una cosa gasantissima, dei vecchi super gasati a fare jam. Ma 24 jazz. BPM. Sì, sì. Così, però molto bello. Insomma, Nicola Ligliano, secondo pezzo, tra l'altro testo di Mogol, un pezzo che mi piace tantissimo e che, per chi la volesse ascoltare, l'ha rifatta in un CD bellissimo che è Mondo Cane di Mike Patton, in cui riprende pezzi italiani anche di Fred Buscaglione, altra roba in generale, e li rifà appunto lui con Roy Paci alla tromba, un CD bellissimo, Mondo Cane. Insomma, questo pezzo si chiama 20 km al giorno, mi fa tanto pensare a quell'intervento che fa il tipo nel film In Berlinguer ti voglio bene, quello che fa, io c'ho la donna e abita, e io la devo andare a trovare, e faccio 20 km all'andata e al ritorno sotto la pioggia. E lei neanche una volta, insomma. 20 km al giorno, dai, sentiamocela, Nicola Rigliano. Venti chilometri al giorno, dieci all'andata, dieci al ritorno, venti chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia d'uscire. Venti chilometri al giorno, polvere e sole, andata e ritorno, venti chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, un mazzo di fiori di prato, ma tutto è andato sprecato. A 20 chilometri al giorno, breve l'andata, lungo il ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che a te. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, un mazzo di fiori di prato, ma tutto è andato sprecato. A 20 chilometri al giorno, a 10 all'andata, a 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che a te. La la la la la la la la la la la. Grazie, grazie, grazie, grazie a tutti, grazie, davvero, di niente, non vi preoccupate, grazie, grazie, a te. Grazie, grazie. E insomma, ragazzi, abbiamo sentito questo pezzone, spero che sia piaciuto a tutti gli ascoltatori, la nostra bella Italia che va in America, e poi con questa cosa di Mike Patton, il ritorno, il rinculo, no? Cioè, quando l'Italia ti ritorna dall'America. E sentiamo Mondo Cane, sentitevela la versione di 20 km al giorno perché la fa ancora meglio. Io poi, per una questione filologica, ho preferito mandare quella di Arigliano, però davvero bella anche quella di Mike Patton. Insomma, niente, viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat, ci sentiamo settimana prossima, mi sa di no, forse quella dopo. Un bacio a tutti, viva viva, dai, grazie Nico, ciao, dai, ciao. Ciao. Troverai tanto sole, tanta pizza e tanto amore. pizzi amore caro Bo. Dubbi e sicure. Eccoci. Standing ovation per Nico. Per Nico. Auto standing ovation. Grazie. È stato bello, ma e poi il apprendiamo però, io ho appreso con tristezza il dispiacere che non ci sarà la settimana prossima. Senti la voce. Sì, un po' rotta dal pianto. Vabbè, e ce ne faremo una ragione, come si suol dire. E come ci facciamo una ragione di tutto quello che accade? Assolutamente, ma tanto ci sono anche nuove rubriche, no? Probabilmente settimana prossima avremo potrebbe anche tornare. Non si guarda in bocca. Io è bellissimo. Cioè, ora che so quali sono le scuderie, voglio un po' capire come funziona. Guarderai. Io non c'ero anche la scorsa settimana, cioè voto pro, stra mega pro, contentissimo di sentirla quella rubrica, è stato divertentissimo. Molto bene, anch'io mi sono divertito. Chissà i nostri ascoltatori. Sì, non ne abbiamo la più pallida idea. No, potresti cominciare a dircelo ogni tanto, magari su postawombat@cercensivere.net. Immagina, apre la mail per dirti se li carma Maldonado. No, no, l'ascolta e rimarrà magari così. Magari vogliono contribuire anche da lontano. Se vuoi aspettare, aspetta, io non aspetterò con te questo evento. Va qua. Bene, mi lasci per strada. Sì. Maledetto. Senti, a proposito di... no, di niente... Cioè, no, volevamo iniziare a parlare un po' di quello che avverrà nei prossimi giorni. Sì, abbiamo già iniziato dicendo che domani a Urbino, però un po' lontano da noi. Un po' lontano. Però se per caso andate da quelle parti, tra l'altro molto bello Urbino, molto, molto bello. Ma è una bellissima città. E invece qui... qui in Florence. In Florence, alla Polveriera, il 7 aprile, poi vi diciamo cosa c'è anche domani e nei prossimi giorni, però intanto il 7 che è venerdì, giusto? È venerdì, sì, esattamente. Sì. Venerdì ci sarà una serata benefit per le brigate di solidarietà attiva. E questo avverrà all'interno del secondo appuntamento di un ciclo di iniziative che riguardano la resilienza, che già vi avevamo raccontato tempo fa. Sì, cioè fondamentalmente il concetto vuole esprimere la capacità di un sistema di adattarsi a un evento esterno, quindi traumatico. Sì. E in questo caso appunto le brigate di solidarietà attiva insieme alle altre persone che parteciperanno alla, al dibattito, sì, ci porteranno l'esperienza, la loro esperienza direttamente nelle zone terremotate del centro Italia. Ok, esatto. Il terremoto quindi questo agosto settembre e... quindi rientra sempre il solito discorso. E ci sarà la proiezione, il documentario. Sì, il documentario si chiama tremare, Bravissimo, sì. Non tremare, dalle 21. Quindi prima sia immagini che gente parla invece sì, racconta. Prima invece prima, dalle 19 si mangia anche. Si mangia, sì. E cosa vuoi mangiare in un evento del genere se non amatriciana. Bravo. Per forza. Quindi amatriciana per tutti, con un bel vinello. Con un bel a gradire. Tutto a prezzi popolari e tutto verrà devoluto al appunto a sostegno delle BSA, che poi appunto fanno diverse attività direttamente sul territorio. Ora, sono una cosa particolare queste BSA, nel esatto, senso che sono un movimento di non soltanto di aiuto alle popolazioni colpite da appunto in questo caso diciamo dal sisma, poi si sono mosse anche in moltissime altre circostanze. Certo. Ma diciamo che cercano di intervenire attivamente mobilitando non soltanto i volontari appunto delle BSA, ma la stessa popolazione. Quindi, esattamente, tu hai a disposizione un po' il loro... Ho il loro grande manifesto. Il loro grande manifesto. Grande manifesto che potremmo leggere tutto. In realtà basta andare su brigatesolidarietaattiva.net e poi c'è tutte le sezioni, è fatto molto bene il sito. E volevo leggervi un paragrafo. Ci sono tanti principi, diciamo, dalla premessa in giù. Volevo leggervi che mi era piaciuto. Siamo tutti orecchie. Il punto emancipazione attraverso l'auto-organizzazione. E loro dividono ogni articolo tra teoria e prassi. Leggo la teoria e poi anche la prassi. Teoria: il nostro intervento non è mai neutro, ma mosso da una precisa volontà politica, cosa che ci porta a rifiutare il puro modello assistenzialista. Riteniamo di dover intervenire prima a risolvere l'emergenza immediata, spesso soddisfacendo bisogni primari, ma pensiamo anche che sia contemporaneamente da svolgere un lavoro volto all'emancipazione, all'autodeterminazione mediante l'auto-organizzazione. Ok, e poi la prassi sotto. Rendere le persone attive e coinvolte in prima persona è lo scopo principale di ogni nostra attività. Poniamo le basi del nostro intervento cercando poi di lasciarlo nelle mani delle persone direttamente interessate. Ad esempio, autogestione delle cucine e dei magazzini. Ci relazioniamo con le persone cercando di agire come base appoggio per la maturazione delle lotte di rivendicazione dei loro diritti, lavoro di informazioni per i migranti come a Lampedusa e Nardò, sensibilizzazione dei lavoratori per costruire rapporti come uno sciopero nel 2011 e quello dei braccianti a Nardò di 10 giorni nel 2011, ho citato anche due esempi, quindi appunto portare non soltanto aiuto, primo aiuto primario che viene portato, certo, nel senso è quello, perché comunque è necessario, il primo intervento è quello per forza, sennò tra l'altro non si può parlare di nulla perché esatto, insomma gli altri bisogni sono più impellenti, e però appunto poi inizia un percorso con le persone che abitano certi territori per diciamo aiutarli a impostare percorsi di auto-organizzazione. Ma infatti è qui, il carattere resiliente, no? Sì. Che si collega a tutto questo ciclo di iniziative, e ci fa molto piacere appunto pubblicizzare e portare avanti, perché è veramente un movimento molto importante. Esatto. E a che noi aderiamo totalmente. Esatto, e appunto tra l'altro c'è a Firenze l'occasione di andare di dare una mano, perché poi alla fine si dà una mano anche così, partecipando all'iniziativa che abbiamo detto il 7 aprile, dalle 19 in poi in polveriera, mangiare e parlare e vedere. Venire! Esatto. Ora, dicevamo prima che ci abbiamo qua con noi Anita, che salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao cara, non so se ti sentiamo, penso di sì. Mi sentite? Sì, io sì, la sento. Dai, la sentiamo. Sì, a proposito di eventi, volevo ribadire comunque il 9 a Bologna, per chi volesse, c'è questa giornata a sostegno della campagna I Love XM24. Grande. Con musica e vari dibattiti, quindi per chi volesse il 9 è uno insomma dei vari incontri che ci saranno fino a giugno, vediamo insomma come andrà a finire. Okay. Siglona. Grazie. Oggi ho scelto un racconto, L'uomo che ride, dai racconti umoristici e satirici di Heinrich Böll. Quando mi interrogano sulla mia professione, mi sento imbarazzato, divento rosso, balbetto, io che altrimenti sono noto per essere un uomo disinvolto. Invidio la gente che può dire faccio il muratore. Ai parrucchieri, ai ragionieri, agli scrittori, invidio la semplicità delle loro confessioni. Queste professioni si spiegano da sole, non richiedono ulteriori chiarimenti. Io invece sono costretto a rispondere a queste domande. Rido. Una missione simile ne richiede altre, perché anche alla seconda domanda, vive di questo lei? Devo rispondere sì. Il che risponde al vero. Vivo realmente del mio riso, e vivo bene perché il mio riso, per esprimersi commercialmente, è richiesto. Rido bene, ho imparato a ridere. Nessun altro ride come me. Nessuno conosce come me le sfumature di quest'arte. Per molto tempo, per sfuggire a noiose spiegazioni, mi sono definito attore, ma le mie qualità mimiche e recitative sono così povere che questa definizione non mi è sembrata rispondere a verità, e la verità è rido. Non sono né un clown né un comico, non rallegro l'umanità, ma rappresento l'allegria. Rido come un imperatore romano o come un sensibile giovinetto candidato agli esami di maturità. Il riso del XVII secolo mi è così familiare come quello del XIX, e se il caso lo richiedesse, rido tutti i secoli, tutte le classi sociali, tutte le età. L'ho semplicemente imparato, così come si impara a risuonare le scarpe. Il riso d'America riposa nel mio petto, il riso d'Africa, riso bianco, rosso, giallo, e per un orario adeguato lo faccio risuonare così come esige la regia. Sono diventato indispensabile, rido su dischi, su nastri magnetici, e i registi dei radiodrammi mi trattano con riguardo. Rido melanconicamente, con misura. Istericamente rido come un controllore del tram o come un apprendista nel negozio di generi alimentari. come si ride la mattina, la sera, di notte al crepuscolo, in breve, dovunque e quando ci sia da ridere, io rido. Mi si crederà se dico che una tale professione è faticosa, tanto più è la mia specialità che so fare anche il riso contagioso. Sono così diventato indispensabile anche ai comici di terzo e quarto ordine, che a ragione tremano per la loro battuta e quasi ogni sera vado in giro per i varietè, come un raffinato genere di claquère, per ridere contagiosamente ai punti deboli del programma. Deve essere un lavoro fatto su misura. Il mio riso forte, vigoroso e selvaggio non deve arrivare né troppo presto né troppo tardi, ma cominciare proprio al momento giusto, e allora scoppio a ridere secondo il programma. Tutto il pubblico urla insieme a me e la battuta è salva. Ma io mi trascino poi esausto al guardaroba, infilo il cappotto, felice di essere finalmente libero dal lavoro. A casa mi aspettano poi telegrammi. Ci occorre urgentemente il suo riso. Registrazione martedì. E poche ore dopo mi trovo in un direttissimo surriscaldato e mi lamento della mia sorte. Ciascuno capirà che dopo il lavoro o in vacanza ho poca voglia di ridere. Il contadino che munge è felice quando può dimenticare la mucca. Il muratore è soddisfatto quando può lasciar stare la calcina e i falegnami a casa hanno per lo più porte che non funzionano o cassetti che si aprono solo a fatica. I pasticceri amano i cetrioli sott'aceto, i macellai il marzapane, e il fornaio preferisce al pane la salsiccia. I toreri amano le colombe, i pugili diventano pallidi quando ai loro bambini viene il sangue dal naso. Capisco tutto perché dopo il lavoro io non rido mai. Sono una persona terribilmente seria e la gente forse ha ragione e mi considera un pessimista. Nei primi anni di matrimonio mia moglie mi diceva spesso: «Su, ma ridi un po'». Ma nel frattempo ho capito che non posso esaudire il suo desiderio. Sono felice quando posso distendere gli affaticati muscoli del mio viso o il mio animo malconcio con una profonda serietà. Sì, anche il riso degli altri mi rende nervoso perché mi ricorda la mia professione. Così il nostro matrimonio è quieto e tranquillo perché anche mia moglie ha disimparato a ridere. Di quando in quando la sorprendo a sorridere e allora sorrido anch'io. Insieme parliamo piano, perché io odio il rumore dei varietè, odio il chiasso, che può esserci negli studi di registrazione. Persone che non mi conoscono mi considerano di carattere chiuso, forse lo sono, perché troppo spesso devo aprire la bocca al riso. Con un viso immobile passo attraverso la mia vita, mi permetto di tanto in tanto un pallido sorriso e penso spesso se abbia mai riso. Credo di no. I miei fratelli raccontano che io sono stato sempre un ragazzino serio. Così rido in tante maniere, ma il riso mio non lo conosco. Eccoci, eccoci, il nuovo fisico a fuoco alle polveri. Perché ridete? Non ho capito. Perché si è mosso tutto. Ah, okay. Ho fatto terremoto. Non ha mosso il braccio, ha mosso il mondo. Vabbè. Per dirci di attaccare. Okay. Mosso anche la gamba, e quello non pensavo è. Fosse stato te. Real, perché di solito io mi muovo e sì, il mondo si muove. Ok. No, bella, grazie Anita. Grazie, grazie mille della lettura. Sì. E per l'intervista anche. Grazie anche per, sì, per essere una grande inviata. Dai, siamo a posto. Momento internazionale adesso. Adesso diciamo finalmente arriviamo verso il nostro momento di apertura verso il mondo. È il mondo. Il mondo ci conosce, ci apprezza per quello che siamo. E soprattutto apprezza il mio compare Guido, perché lui porta la voce a tutti gli ascoltatori della Radio Wombat dei detti popolari appunto del globo. Del globo. Eccolo. Sì, sì, sì. Eccoci. Detto del mondo. Questa è, potrebbe essere la, la futura sigla di Detti dal Mondo. La mia unica e inimitabile rubrica. Proprio perché è veramente raffazzonata. Sì, assolutamente. Allora, la settimana scorsa ci siamo fermati un attimo con il consueto Games e i consueti detti per dare spazio alla sottorubrica L'Urlo dei Balcani. Certo. Che tornerà settimana prossima con il... l'agognato da me detto kosovaro. Bene, aspettiamo con trepidazione. Esatto. Nel frattempo torniamo alle, un po' alle origini. E mi ricollego, che... mi ricollego alle origini. Mi era stata fatta una richiesta l'ultima volta, che era la richiesta di un detto cubano, che in quel momento non avevo. Sì. E l'ho trovato e anche, mi è piaciuto anche molto. Molto bene. E vai, ve lo dico in lingua. Dai. Hombre che trabaja pierde tiempo prezioso. Niente male. Sono meglio se è spagnolo vero quello. Come? Perché? Cioè, no, assolutamente. Bellissimo. Ombre, sì, viene. Bene, bellissimo. Tra l'altro siamo tutti molto d'accordo. Siamo tutti molto d'accordo. Sì, sì, sì, sì, sì. E come è evidente, tra l'altro, dal fatto che siamo qua. Allora, mi era stato chiesto anche un detto uruguaiano che non ho trovato. Sì. Non ho trovato. E quindi? Niente, continuerò a cercare, però per ora non ce l'ho. Ma, quindi dai, games. Quindi io ne vorrei uno. Allora dimmi quello che vuoi, perché ho pensato che posso usare la funzione Ctrl F e lo trovo anche molto più velocemente del solito. Però io non so bene che chiederti. Ti potrei chiedere un detto. Beh, prova, tanto il giochino è così, te lo provi e non c'è. A me piacciono quelli russi. Cioè, la saggezza russa, secondo me è una saggezza importante. Per esempio, saggezza russa. Nel frattempo aspettiamo, tra l'altro, per inframmezzare veramente stronzate e cose serie. Prima di uscire avevamo visto. Non funziona un controllo. Niente, no, non lo dico. Ma ce l'ho, ce l'ho. Meglio non dire. Sì. La vuoi sapere russa? Sì, russo? Certo. Sì. E il detto russo è questo. La fretta va bene solo per acchiappare le pulci. Giustissimo. Giustissimo. Bello anche detto russo. Tutti i detti meravigliosi stai sfoderando. Grazie, Guidino. Sì, sì, devo dire, alcuni sono carini, altri un po' banali. Ma che ci fotta a noi? Ma alla che fine è tutto noi? Semplicemente compagnia questa, non è nient'altro che compagnia. Ci risentiamo settimana prossima per il nostro Games. Ci fermiamo qui anche noi, perché siamo... La richiesta per la prossima settimana è cioè diciamo per le prossime, non quella prossima, quella dopo, perché la prossima c'è il Kosovo che regna. Esatto. Ok, quella dopo, quindi cos'era? Uruguay. Uruguay, però se hai una richiesta particolare... Te la farò durante la settimana, aspetta, vedi? Madagascar. Dal microfono che non funziona dicono Madagascar. Dicono Madagascar, va bene, io me lo segno e sicuramente troverò qualcosa. Anche perché basta prendere un africano e dire Madagascar. Non vado a usare questi trucchetti biechi, anzi biechi trucchetti. Bene. Per citare anche. Vedremo. Sì. Ti terrò d'occhio. Mi terrai d'occhio, esatto, come sempre. Ma per concludere la tua rubrica, tra l'altro, mi sa che adesso mandiamo una canzone che una canzone che volevi mandare te, tra l'altro. Sì, allora, se i nostri ascoltatori hanno avuto il plazir di sentirci quando abbiamo fatto la puntata La fuga del Wombat, cioè la puntata quando c'è stato il festeggiamento per la decisione definitiva del logo del Radio Wombat. Detto bene? Bravo. Dai, E niente, io ero andato a rappresentare la redazione di Fuoco alle Polvere e avevo proposto un pezzo di Merkandede. Sì. Un autore turco. E avevo promesso del rap turco. Poi in realtà il pezzo che io, Merchanistan, che avevo fatto andare dell'album 800 non era quello del rap turco. Invece ve lo porto a voi, ascoltatori di Fuoco alle Polvere. Certamente. Solo il meglio per noi. E solo il meglio per noi, esattamente. Quindi vi lascio con questo pezzo. Istanbul di Merkandede, album 800. Viva! Thank you. queste false. L'oscuro si faccia più di se l'offis. Io sono scivo con la cemina di Jack. Da c'è più più caldo. Ma faccio io a cui te ne si dare di mi testo. Ne vede c'è più vista. Ne hai più ne hai dona. Dalla mano qua c'è come mi stessi marcia. Che mi sente chance. Che mi sente da mozza. Che mi sente pasta ben. Ma io mi di ben. Ti ne sarò da. Ti scia da hen. Eri con te. Io vuoi più free. Di ende. Eri più curioso. Ne c'è più più ci si tenta. Scudo la chitarra. Che l'altro chiamo. Gönül sefası. İstanbul. Poco alle polveri. Momento sedicente. Che gioia. Tra l'altro, sempre Bob Rondelli sullo sfondo. Sì. Il tuo amico turco non era male. Non era male. E niente, e andiamo avanti. Siamo quasi, penso anche in orario. Pensate qua oggi. Pensavo invece. Boh. Siamo bravi, siamo bravi. Siamo contenti. Hai visto. Ora, attenzione, noi vediamo da lontano il nostro regista Grippo, sì, che con una chitarra in mano. E quindi sì, abbiamo, pensiamo di cosa possa succedere. Però prima, con calma, però. Con calma, stavo infatti, accordando, con calma. Non ti stare a preoccupare. Lasciatemi allora, in pace. Siamo noi. Con calma. Sì. Allora, andiamo avanti un po' nel raccontare gli eventi, perché c'è il solito evento importante la seconda domenica del mese in Polveriera, sì, ossia il mercato contadino e delle autoproduzioni. Ottimo. Ottimerimo. Giornata sempre meravigliosa e speriamo soleggiata. Speriamo soleggiata, certamente. Cosa succederà? Racconta, cosa succederà? Racconta. Allora, succederà che dalla mattina banchi di contadini e anche di artigiani che si autoproducono i propri, le cose che vendono, esatto, saranno presenti nel chiostro di Santa Apollonia e appunto dalla mattina dalle 10. Successivamente nel pomeriggio, attenzione, Grippo. Voilà. With the father of Grippo. Davvero, come mio babbo. Pazzesco. Grippo. Quindi Grippo and Son, perché chiamiamo anche il padre di Grippo Grippo, ovviamente. Son, si ribaltano i ruoli. No, il Grippo and Son. Grippo and Sons. Oppure Grippo and Father. Ah, sì. Facciamo un sincero, umile omaggio al grande Fabrizione De André. Benissimo. Questo faremo. Quindi nel pomeriggio verso le 4:30, diciamo 4:30. Sì, 4:30. 4, dai, venite alle 4. Forza. Veni anche alle 10 mattina. Cioè poi vi dovete immaginare sul pratino di Stelle ascoltare anche, Andrea. Sì. Cioè. Certo, quindi non è che vi voleva accompagnare proprio il mercato la giornata. Certo. Uno va lì per le bancarelle, nel frattempo le grandi canzoni. Da molto 10, bene. Come dicono i giovani. No, è molto bello. Secondo me i giovani del 2001 dicevano da 10, tesoro. Ora dicono altre cose che noi non comprendiamo. E dopo... Sì. Michelle e Andrea Ottani ad allietarci con musica brasiliana. Senza penso, sì. E durante invece l'aperitivo, quindi verso le 7, 7:30. E nell'immediato dopo cena Pachamama, gruppo pisano, che viene a trovarci per l'occasione. E wiwa. Detto questo, quindi riepilogo poi lo facciamo dopo. Ricordatevi, domenica 9 ci sono diverse cose, tra cui quello che diceva anche Anita prima dell'XM. Sì. Dipende dove siete. Scegliete, se siete a Bologna, se siete a Firenze. Però scegliete uno dei due. Uno dei due. No, a casa. No, a casa. Beh. E, detto questo, noi vedevamo da qualche tempo il nostro amico regista che spippolava con la sua chitarra, nonché col mixer, nonché con tutti gli altri oggetti tecnologici che abbiamo qui con noi, e siamo contenti di sentirlo suonare, come sempre. Grippo. Praticamente non si sente niente. Quindi io faccio una telecronaca in diretta di Pizzo che mi chiede se senti. Io dico no, però lo dico a voi. E quindi è tutto strano. Però a noi non ce ne frega niente, perché anche Guido mi terrà conto. È saltato tutto. Sì, scusate, eccocelo. Abbiate pazienza. Figurati. Portate pazienza, che sono qua tentacolato. Bravo, sei meraviglioso. Grande. Ora tiro botte a tutto e nel frattempo comincio. Importante che non caschi. Eccola là, la chitarra. E niente, dicevo che andrò a eseguire un umile tributo a Fabrizio De André in compagnia di Mipa, questo fine settimana, domenica. E infatti nulla, io tutte le volte colgo l'occasione, tutte le volte che si presenta un attimino De André, via, faccio subito un pezzo di De André. E niente, provo a fare, a interpretare Cora Canè, A forza di essere vento, un pezzo insomma che mi è molto a cuore, ecco. Il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano, come un rame a imbrunirsi un muro. Saprei leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, i segreti che fanno paura, finché un uomo si incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si rende la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiori, a ridere e a bere, è un sollievo di lacrime a invadere gli occhi, e dagli occhi cadere. Thank you. ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio. Sero butto tei che rava gettano mori ita e da un casta basu ni maro ne mori. Con obra somo taglia, con obra, obra con ascovi, me già va andandia, me già va parlando l'ascovi. Grande Pizzo, dicono anche da giù. Bellissimo. Bellissimo, grande, grandissimo, grazie. Grandissimo. E per non perdervi queste altre mitiche canzoni di Fabrizio Andrea, a parte tutto, davvero, venite a sentirli. Ma fu anche meglio, fa anche meglio, anche c'è perché mi babbo, perché io da me tutto un trecciafo, sempre un casino. Tu spacca. No, poi c'è anche il fatto che tuo babbo è una bomba, quindi bravo, sì, lo so. E quindi siamo molto curiosi, molto molto curiosi di sentirvi. Viva. Molto grazie. Bene. Allora, te appena faccio un cenno quando ti sei riadattato sulla sedia e hai disvestito i vedi ci sei già messo uno sfondo, sì, quindi sì, ci sei già sono, ci sono, a posto, a posto, a posto, a posto. No, no, non devo farvi nessun cenno, ci sono, ci sono. No, no, figurati. Abbi fede. Abbi fede, abbi fede. Siamo qua e nulla, si lancia a bricco, direi. Direi no? Di sì, abbiamo fame. Io inizio a avere fame, ho tutti fatto poi anch'io. Ho fatto anche suonatina, tutto. A mangiare sarebbe quindi è il momento di impastillo caro. Sbirillo. Sì, dal momento che non possiamo mangiare, almeno pensiamoci intensamente. Sigla. Siamo qua con Bricco sulla porta che se ne va verso il nord dell'Europa. Hai ghiaccio e però ci siamo resi conto che ci manca una ricetta buona, perché come si fa stasera se no a cenare, e quindi ne facciamo una al volo. Evviva. Viva il pastillo sbirillo. Il pastillo sbirillo. Il pastillo sbirillo. Il pastillo sbirillo. Via. Ciao. Ciao, buonasera, buongiorno, buongiorno. Tu praticamente ci lasci qui a preparare la puntata senza farcela mangiare, senza quindi farmi ci devi mangiare dare delle... Sì, vi do le dritte. Grazie. Va bene. Cosa fare? Prendete un broccolo, lo lavate, lo sciacquate un attimo, lo tagliate le cime e lo mettete nella pentola con l'acqua della pasta. Lo mettete a bollire, va bene? Fate sì. Bollire 5 minuti salando. Buono. Salando sì. L'acqua della pasta. Ci sta. Poi, una volta che è bollito 5 minuti, butti la pasta dentro. Tutto. Butti la pasta dentro, okay. Assolutamente. Nel frattempo, in una padella, in un po' d'olio... Ci metti un po', l'hai fatto facendo sì con la testa, vuol dire abbondante. Non deve essere un soffritto scrauso, certo. Deve essere un mai bel soffritto. Va bene. Sì. Due spicchi d'aglio tagliati fini, sì. Tre pezzi di peperoncino, buoni. Un filetto d'acciuga oppure la pasta d'acciughe. Sì. Fate soffriggere, stando attenti a non far bruciare l'aglio. Sì. Una volta cotta la pasta, la scoli non troppissimo, al dente, Aspetta, ma il broccolo lo butto in questo soffrettino, immagino. No, no, ah, broccolo insieme alla pasta. Ecco, io zitto, pizzo. No, no, no, no, buono, buono, zitto, fermi. Ok, poi dopo quando io non ci sono, nella puntata davvero disquisite su questo. Okay, però io vi do la mia ricetta. Io protesterò, bene. Bene, perché lui è più gnognoso, ci vuole mettere tutto. Sì, lo so, lo tagliamo. Va bene, quindi niente gnugna. La pappina la fanno i broccoli che sono un po' lessati. Va bene, quindi ributtate tutto in padella, fate soffriggere 2 minuti. E mettete in bocca. E via. O dove vi pare, insomma. Grazie, Bricco. Grazie mille. Dai, allora ne approfitto per fare il detto, già che ci siamo a questo punto. Per oggi, che è il 3 d'aprile, il detto è terzo aprilante, 40 durante. Se piove oggi, piove per 40 giorni, ragazzi. Attenzione, quindi... però io sapevo che ci deve essere anche la conferma del 4. Il 4 aprile deve confermare il terzo, se no fai un casino. No, non lo so. Lo sapevo io. Addirittura? Sì? Quindi c'è, sì, vabbè, sì. Comunque ne inventano una al giorno. Comunque non dovrebbe piovere. Ne hanno inventato una al giorno. Ragazzi, molto bene, molto bene. Il fiume. Solo a Berlino piove. Dio, ciao buono. Bricco, buon viaggio. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Grande di nuovo. Eccoci qua. È il tranello del 3. Il tranello del 3 e il tranello del 4. No, io come promesso, un po' di polemica a Lillo la faccio. Secondo me il broccolo va messo in padella prima, insieme a quella robina che hai fatto, la gnugnina di aglio e pasta d'acciughe, eccetera. E bontà. E certo. Amalgami il tutto aggiungendoci anche un pochino di acqua, magari di cottura della pasta, oppure un altro po' d'acqua da bollire, tipo noi c'è il bollitore, ci aggiungi un po' d'acqua, anche un po' d'acqua ghiaccia. Sì, pure bene anche la fai tirare un po', sì, cioè sì. Mentre cuoce la pasta, te hai bello levato il broccolo con un mestolaccio, certo. E l'hai messo dentro alla padella e fai tempo di tirare di modo che faccia sto suino, sì, sta, sì, pappina, sì, che secondo me non fa con la tattica di Lillo. Comunque vabbè, non voglio parlare. Io sono di tuo avviso, ti devo dire, Pizzo, anche io faccio come te. L'abbiamo fatta così stamattina, comunque. Però il cavolfiore, però, è la stessa cosa. Cavolfiore invece di broccolo. Quindi, insomma, potrete confermare. Bene. Polemica giusta. Basta. Sì. Polemica giusta. Si può fare anche come dice Lillo. Grazie, Lillo, anche per il detto del giorno. Certo. Grazie. Quindi oggi non è piovuto. In teoria, per i prossimi 40 giorni dovrebbe piovere molto poco. Però questa deve essere confermata domani. Cioè, domani, se piove, è un casino. Si sballa tutto. Per aprile fa il cazzo che vuole. Se no, se anche domani non piove, in teoria dovrebbe essere un bellissimo aprile. Che ci porta verso nuovi lidi. Quindi aspettati raffiatate. Siamo esperti meteorologi ormai. Io devo fare 20 km in motorino, però tra un pochino. Scusa. Scusa. Io no, perché è rotto, però mi salverà forse. Bene. Aggiornamento motorini. Aggiornamento motorini fatto. Se volete facciamo anche un aggiornamento traffico qui del centro, che è completamente impazzito perché hanno chiuso tutte le nostre strade che ci portano verso il centro della città. C'era l'istruzione di Nardella, non l'hai seguito? Sì, l'ho viste. Nardellone, istruzione. Istruzione. Io ho preso la bici, così gli ho... Insomma, come si suol dire, eh? Sei andato in culella, sì, a Nardella. Allora, calma, è sangue freddo. Qui manca poco tempo al nostro momento di chiusura, perché siamo strettini ormai. Il tempo scorre. Tempo sfugit. E noi dobbiamo raccontarvi ancora un paio di cose che io non ho più aperte sul computer, quindi me le ricordo. Allora, partiamo dal il quarto e ultimo appuntamento, purtroppo per ora, appuntamento con Luck Feeling in polveriera. Sì, a me piacerebbe davvero continuare. Mi è piaciuto molto, sono stato molto bene. Ho partecipato alle scorse serate, okay. È stato molto bello. Sì, anch'io. E sia la situazione, sia gli argomenti, sia chi è venuto a raccontarci, chi... Ma la volta scorsa abbiamo visto tutti i documentari e i reportage fatti, quello che c'è sui vecchi Hack Meeting, sì. È stato bellissimo, quello del 98 era incredibile. Sembrava veramente incredibile, un'altra epoca, sì, davvero. Materiale, tra l'altro, cioè nel senso, siamo stati fortunatissimi. E la parte quella, mi era piaciuto particolarmente la parte in cui prendevano in giro la giornalista di La Sette, così con il nettarello, facevano finta. Ecco, infatti, se volete, prima che vi si descriva noi, parole zoppicanti. Allora, andatevi direttamente a vedervelo, è divertente, su YouTube, è una cosa carina. Internet. Il, com'era il netterello? Il netterello, sì. Netterello. Prendevano in giro la gente. Esatto, andatevi a vedere questo video divertente del... dell'Hack Meeting del, non mi ricordo, mi pare del 2006 era okay. Quello esattamente. Invece questa domani. Nuova l'ultima proiezione sarà Citizen 4. Citizen 4, quindi il ormai famosissimo famosissimo documentario. Sì. Questo è un documentario? Sì, su chi è il documentario? Ah, su Edward Snowden. Il famosissimo. Okay. ok, no, non pensavo non ci fosse arrivato. No, va tutto bene. E il documentario del 2014 di Laura Poitras. Non so come si dice, perché non so da dove arriva. Attenzione. Questo è grave. E il tra l'altro ha vinto anche un Oscar al miglior documentario del 2015, quindi insomma, sì. In realtà l'ho anche intravisto e sembra molto bello. È un documentario in cui Edward Snowden direttamente parla con questa regista, sì. E racconta quello che sa, è il modo in cui sono venute fuori tutte i segreti, diciamo, contenuti, cioè tenuti dalla NSA americana e che sono stati poi sviluppati. Era la sua miglior difesa poi, probabilmente. Esatto. Quella di realizzare un documentario di questo genere. Sì, anche perché viveva in un momento, penso, di estrema paranoia. Boia. Anche perché era cercato da tutte le agenzie di informazione e controspionaggio e eccetera, eccetera, del mondo. Quindi venite, perché ci sono sempre i nostri, no? Maria e Gino che raccontano. Sì. Sì, no, sì. C'hai una cosa a metà bocca. No, nulla, assolutamente nulla. E dalle 8. Dalle 8, sì. Dalle 8, mi raccomando. Polveriera, andate. Venite, mangiate, da mangiare. Puoi mangiare anche davanti al film. Prende super bene. Potete fare un po' quello che volete. Esattamente. Poi. Sì. No, vai. Poi. Poi, sabato. Attenzione, un'altra città. Oggi avevamo raccontato anche un sacco di eventi di altre città. Roma. Questo ci interessa invece per quanto riguarda la radio. Sì. Ci sono dei nostri inviati, dei nostri delegati di Radio Womat che sono, esatto, andranno là. Quindi, che cos'è questo? Sabato 8 aprile al Forte Prenestino di Roma ci sarà questa mega festa, ok? Rebel Music Fest Cool Runnings, in occasione di un compleanno di una crew reggae interna del, sì, del Forte. E cose interessanti durante quella giornata. La presentazione di un libro sulla storia della radio pirata, scritto da Andrea Bornino, e un dibattito a cui parteciperà sicuramente Radio Wombat, Radio Onda Rossa che ospita, e altre radio pirata italiane. Esatto. Un dibattito quindi appunto sulle radio pirata e sulle frequenze AM che ci interessa. Il discorso che abbiamo detto più volte. Esatto. Ci interessa assai. E appunto poi la serata, questa lunga serata di dub e reggae sparsa per tutto questo luogo enorme che è il Forte Prenestino. Sarà molto bello. Beh, sarà una super serata. Sì. Però la parte interessante che ci interessa appunto è il discorso sulle radio pirata autogestite, sì, che ci sarà prima, quindi è una cosa che non si trova spesso, quindi se siete nei paraggi di Roma andateci assolutamente. Allora, vogliamo dire qualche altro evento? Vogliamo dire qualche altro evento? Potremmo mandare l'ultima canzone della nostra puntata. Certamente. Rientriamo, vi salutiamo, vi diciamo cosa ci siamo scordati e ci sentiamo la settimana prossima poi. Allora si va con Something Good degli Alt-J. Gli Alt-J. Viva. Qui su Fuoco alle Polveri. Thank you. E la garra sale. Certo. Mamma mia. C'è Bruce, che ragazzi, fuga sullo sfondo. E quando c'è Bruce non si può niente altro, c'è la grinta di andare a casa. Ciao, boh. Ciao. Ci lascia lui e si va via. Esatto. No, ultime due cosine che volevamo dirvi e poi cosine cosette, sì. E allora, uno, domani mattina alle 9, alle 9, strano, alle 9. Però c'è anche tanta gente che sì, perché alle 9 c'è, fare qualcosa. Ci sarà lo yoga che è iniziato settimana scorsa e ha avuto una numerosa partecipazione. Sì, enorme successo, è vero. Queste 9 a te ti spaventano, ma altre gente no. No, no, assolutamente. Ma infatti, ora poi l'ultimo è stato alle 5 di pomeriggio. Sì, la E il domani mattina alle 9, poi giovedì alle, sempre alle 5 di pomeriggio. Quindi in polveriera. In polveriera. Esattamente, il corso di yoga. Portatevi il materassino. Please. Domani viene anche Anita, dice. Domani viene anche Anita. Quindi, quindi, ragazzi, se, se volete conoscerla. Volete, c'è anche Anita, sì. non andrà a questo punto, non andrà più. E poi? E poi c'è una presentazione, ci siamo dimenticati di dire, il 6, giovedì 6. In Viale Corsica, locuzione Viale Corsica, presentazione in 77 e poi con Oreste Scalzone, fondamentalmente uno dei fondatori e che hanno fatto parte di Potere Operaio e quei movimenti autonomi di quell'anno, no, vedevo fare versi strani, dicevo, a chi? A lui invece no, sta solo si sta godendo il momento di avere sotto, no, vabbè, Brussone. Quindi, vi stavo dicendo, alle ore 17, giovedì in Viale Corsica, ci sarà appunto la presentazione di questo libro e poi ci sarà la periscena e improvvisazione jazz. E bello. Andate se vi interessa. Riflessioni, azioni di, insomma, di quegli anni, quindi del 77 principalmente, ripercorrendo insieme a Oreste Scalzone e appunto quegli anni di Potere Operaio da quel punto di vista. Bene, detto ciò, niente, siamo arrivati verso la conclusione. Sì, siamo arrivati di questa puntata alla fine e ce la siamo cavata, dai. Ce la siamo cavata. Sì, dai, oh. Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Poteva piovere. Ringraziamo anche Giovo che ora è sparito, Iovo. E la sua connessione internet. No, no, ciao Iovo, col cavolo. C'è. Senza di lui oggi tutto provo, questo non sarebbe possibile. Provo a fargli una domanda da qua. Vai. Iovo, ma domani c'è Music Vox Populi? Ovviamente. Ovviamente, mi ragazzi, mi raccomando, domani. Domani ovviamente c'è Music Vox Populi. Sì. E alle il pomeriggio, alle 4, no? Iovo, che ora è? 17. 17 e poi abbiamo anche la revancia. La revancia stasera, invece stasera alle 22. No, rimanete. Alle 21, ti è. No, alle 22. No, alle 21. Alle 21, ragazzi. È lì, alle 21:30, così allora, non perdete né l'inizio e la fine. Voi all'8 collegatevi, poi sì. Se inizia un'ora dopo vi ascoltate. L'ottima musica che Radio Woman fa girare, nel mentre non ci sono le fantastiche trasmissioni. Quindi vi lasciamo alla revancia più tardi, adesso alla music di Wombat. Ci sentiamo settimana prossima? Sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì, sì. Evviva! Sempre salutiamo anche appunto chi no, che è ancora forse in macchina cercando di raggiungere Urbino. No, a questo punto saranno arrivati, no? Guarda, lontano Urbino, non sembra mai lontano. Non sottovalutare. Però forse sono arrivati, quindi se sono arrivati li salutiamo e salutiamo anche gli amici di Urbino che penso che abbiano iniziato ad ascoltarci da un po' di tempo, sai? Grandi, sarebbero dei grandi, ma sono dei grandi comunque. E ci sentiamo settimana prossima. Viva! Wombat! La mortadella è buonissima, c'è niente da fare, è proprio buona. Mortadella è comunista. Salame socialista. Prosciutto democristiano. La coppa liberale. Le salsicce repubblicane. Prosciutto cotto e fascista. I radicali? Cosa? I radicali. Cosa? I radicali nel gioco del salame e del... Che cosa? I radicali nel gioco di prima. Ma che cosa? I radicali nel gioco degli insaccati. Ma che cosa? Ma va, va, va, non si può dire mai niente con te. Go how Paul Berry. Radio Vomba.